ci abbiamo, no, no, no, no, da, da dove si faceva? Cazzo se frega, da un po' ce ne lo sai che si fa, lo sai dove si va. Tutti atrás, tutti atrás, perché nella vita ci vuole costanza. Tutti atrás, tutti atrás, perché fine si fa tutti alla travezzagna. Non perderei le palle trans, a vedere se ci fa toccando i tuoi pezzi di cuore. Al male un bel culo, fa pulirti al tuo maglione. Ciao bella, come va? Ciao bello cazzone. Allora che si fa? Io tanto troia. Allora va bene, dai, via, fai vedere. Non fai toccare pupa. No, no, no, no, c'è la polizia. Bastardo! Tanto noi si fa cena. Che cazzo se ne frega. Ciao. Dopo cena lo sai, ciao, che vai, si fa. Lo sai dove si va. Fammi il cenno. A vedere se ci fa toccare che pezzi di cone. Fai fare un bel culo per pulizia il tuo maglione. Ho sbagliato, gli audio, è un plugin, stiamo registrando, certo, ragazzi, così farà un miliardo di dollari. Discenda, 1, 2, 3, mamma mia, no, no, ferma, no, no, li facciamo, dai. Partite a moda, sì, facciamo. In presenza sono una discesa, il mio nome è Gustavetta, non rompe le palle a nessuno, me ne sto nelle beta, sono solo una discesa con la lingua biforchetta, non rompe le palle a nessuno, me ne sto nelle beta, è arrivato il po', figa, ed è arrivato il po', figa, e ci voleva il po', figa. Scambia tutti per il po', figa, mentre invece e mi presento sono una discesa, il mio nome è Gustavetta, non rompevo le palle a nessuno, me ne stavo nelle betta, sono solo una discesa con la lingua biforchetta, non rompevo le palle a nessuno, me ne stavo nelle betta ed è arrivato il po', figa, ed è arrivato il po', figa, e ci voleva il po', cambia tutti per il po', figa, che è successo un macello, la gente fuori dice bello, si fa prendere dalla foglia, vedono tutti quanti voglia, stavamo bene, non discette, con le lingue di fogliette, avevamo fatto anche dico, e fa rima con Torino, ed è arrivato il po', figa, è arrivato il po', figa, e ci voleva il po', mi presento, sono il Boida, poi pensate un po' che a me e alla fine che hanno fatto tutti quelli come me, ce ne stavamo in indosensi a sognare. fare un bel bandito. Ci siamo svegliati una mattina, ci siamo trovati qui a Torino ed è scappato il bom. Figa, ed è scappato il bom. Figa, e ci è incazzato il bom. Figa, non mi piace, mi ed è scappato il bom. Figa. Oh ragazzi, come mai? Non è successo? No.